Allora, alla vostra attenzione voglio portare appunto questa donna, una donna particolare che ha vissuto una vita molto molto semplice, quasi per alcuni aspetti nell'anonimato, nel senso che anche nella cittadina dove ha vissuto lunghi anni, pochissime persone conoscevano la sua fama, conoscevano la sua importanza. Però nello stesso tempo è una donna che nel 1913, quando aveva 83 anni, si è guadagnato il titolo di naturalista più industriosa e famosa del mondo ad opera di un quotidiano di Filadelfia. E nello stesso articolo, appunto, il giornalista definiva proprio semplice la vita di Mary. E diceva appunto che nella società in cui aveva vissuto, pochissimi erano a conoscenza della sua importanza. Mary Lua Adelia Davis, passata comunque conosciuta maggiormente come Mary Tratt, con il cognome del marito. Oggi un attimo ripensando a questa cosa, ho capito forse che la ragione di essere passata appunto la sua fama con il cognome del marito nasce probabilmente dal fatto che i suoi articoli venivano pubblicati con il cognome del marito. Ma penso che sia il momento di dare visibilità e riconoscimento esclusivamente a lei. Quindi Mary e Lou Adelia Davis. Nasce il 7 settembre 1830 a Trumansburg, in stato di New York, e vive qui per circa 9 anni insieme alla sua famiglia e poi si trasferiscono nell'Ohio. Non esistono biografie ufficiali della nostra Mary, per cui abbiamo soltanto proprio delle notizie molto molto spicciole, cioè proprio gli eventi più importanti della vita. Manca appunto una biografia e io mi auguro che da questo momento in poi che con questa serata stiamo lanciando un seme per dare la possibilità a questa figura di avere un maggiore riconoscimento e avere la possibilità che qualcuno si occupi di lei e dia una maggiore testimonianza, quindi che ci porti altri elementi della sua vita. E fino all'età di 33 anni non conosciamo null'altro. All'età di 33 anni, e già questo secondo me ce la dice lunga sul suo carattere, sulla sua indole, perché ritengo che anche se al di là dell'oceano, penso che anche per quell'epoca 33 anni sono comunque tanti per una donna, forse probabilmente incominciava a sentirsi zitella. Nel 33 anni, dunque, nel 1863 sposa il medico Joseph Burrell Tratt. È una persona con un'intelligenza vivace, è una persona che sicuramente l'avrà attratta perché oltre all'amore per la sua professione di medico, aveva anche un grande amore per tutta una serie di altre materie, aveva tutta una serie di altri interessi. A cui dedicava moltissimo tempo, quindi amava l'astronomia, l'abolizionismo, il trascendentalismo e soprattutto, e penso che questa è stata una cosa veramente importante anche per la stessa Mary, era un sostenitore dei diritti, del riconoscimento dei diritti alle donne. E questo sicuramente avrà avuto la sua importanza. I due vivono qualche anno ancora senza spostarsi, ma nel 1868 si spostano in una comunità nel New Jersey, una comunità che prendeva il nome fondata da Charles Lindsay, la comunità di Vineland. Questa comunità nasceva con lo scopo di proporre una comunità progressista fondata sull'agricoltura. Ed questa era, diciamo, voleva dare ad una nuova comunità un aspetto particolarmente moderno. Probabilmente la coppia è stata attratta da questo aspetto. Di sicuro, comunque, questa comunità ha rappresentato per la nostra Mary qualcosa di veramente il momento per spiccare il volo. Una donna che appunto fino a 39 anni non si conosce nulla, cioè non ha dato ancora nulla, e invece a 39 anni, nel 1869, Mary pubblica il primo articolo su una rivista scientifica e quindi inizia così la sua carriera di naturalista, di botanica, di entomologa, di ornitologa e di grandissima scrittrice. Infatti, nel giro di pochi anni, dal 1869 al 1871, incomincia veramente il suo successo, comunque un successo semplice, un successo soltanto appunto sulle riviste scientifiche, ma un successo notevole perché grandi nomi della scienza si accorgono di lei e incominciano a prendere contatti con lei. Quindi abbiamo scienziati di oltreoceano, dell'Università di Harvard e di Cambridge che cominciano ad interessarsi appunto a lei perché lei riesce a svolgere un lavoro molto molto minuzioso, molto articolato, molto preciso della vita, soprattutto degli insetti. Quindi studia le farfalle, studia i ragni, studia le formiche, studia le piante insettivore, studia appunto anche delle particolari specie botaniche che risultavano, alcuni ritenevano che fossero estinte. Quindi studia tutti questi aspetti, è proprio attratta a un amore per questa, per queste figure, per questi minuscoli amici per lei e lo fa veramente con una grandissima passione. E lo fa nel piccolo giardino di casa sua che trasforma in un laboratorio. E lei è capace di passare ore e ore sdraiata per terra a studiare le formiche, ore e ore a guardare appunto il lavoro di un ragno. E riteneva che per fare le proprie casette i ragni impiegavano lo stesso sacrificio, lo stesso lavoro, la stessa dedizione che impiegano gli uccelli per fare il loro nido. Ma non basta, cioè non era solo questo la sua attività, nel senso che non solo il suo giardino era diventato un laboratorio, ma anche per magari in momenti in cui le condizioni meteorologiche non lo permettevano, per avere la possibilità di continuare i suoi studi in casa, lei prelevava le zolle di terra con tutti gli esserini, li portava metteva in dei contenitori e poi li portava in casa. E quindi aveva la casa, anche la casa veniva trasformata, fu trasformata in un laboratorio. Quindi vi erano tutti i recipienti con le casette dei ragni, le casette appunto delle formiche. Addirittura, questo è un episodio molto simpatico, un giorno si ritrova a stare ben 3 ore sotto il sole a guardare una battaglia tra le formiche rosse e le formiche nere. E a un bel momento si rende conto di rischiare un'insolazione, quindi preleva con grossi coltelli, con una cazzuola, tutto il campo di battaglia di queste formiche, lo mette in un recipiente e lo porta in casa e quindi continua ad assistere a questa battaglia. Le formiche non si scompongono neanche un attimo, sono talmente impegnate nella battaglia che non fanno nessuna mossa, cioè continuano la loro guerra e alla fine resteranno tutte le formiche nere morte, pochi esemplari vivi di rosse vittoriose. Un'altra volta ancora, attratta perché i ragni era forse la maggiore passione l'ha avuta per i ragni. E cercava assolutamente appunto di studiare il modo di costruire la loro casetta. Però i ragni scappavano nel momento in cui lei si avvicinava, soprattutto perché magari usava una torcia. Finalmente un bel giorno riesce ad avere la possibilità di studiare un bel ragno di sesso femminile che non si scompone dalla sua presenza né dalla luce della sua torcia e quindi lei riesce anche in questo caso a prelevare la zolla di terra e porta in casa questo esemplare. I ragni li metteva in vasetti di vetro che poi sistemava e aggiustava con delle piccole piante, con delle foglie, con del muschio sia per dare ai ragni un habitat naturale, ma anche per fare in modo che le sue amiche schizzinose non venissero disturbate dall'idea di vedersi circondate nel momento in cui andavano a trovarle da ragni, cioè da contenitori con ragni. Stavo dicendo prima che appunto Mary si fa conoscere da nomi famosi di scienziati di Harvard e di Cambridge. Questi incominciano a non soltanto a interessarsi ai suoi articoli, ma le chiedono proprio lavori. Quindi lei svolgeva sia lavori di ricerca e di osservazione per i propri interessi, per i propri desideri, ma anche su ordinazione. Ed in particolar modo Asa Gray le chiede appunto, cioè Asa Gray era una persona con uno scienziato con un carattere un pochino, cioè non amava, non era molto confidenziale, ed un carattere un po' rude, però nei confronti di Mary ha veramente una grandissima simpatia, ha modo di affermare che le modalità di osservazione e di attenzione che pone Mary nel momento in cui studia gli esemplari degli insetti è talmente è forte da superare sia se stesso che Charles Darwin insieme. Quindi ha un grande veramente interesse, un grande rispetto della figura di Mary. E Asa Gray che provvede poi a presentare a Darwin, che in quel periodo sta conducendo i suoi studi sull'evoluzione della specie, presenta Mary a Darwin. Quindi inizia tra il 1871 e il 1875 una fitta corrispondenza anche con Darwin. Mary è talmente sicura delle proprie osservazioni e dei propri studi che non esita in varie lettere a contestare alcune teorie avanzate da Darwin. Darwin, infatti, in diverse lettere ha la possibilità, cioè manifesta proprio il proprio errore senza alcun problema e dice: evidentemente mi sbagliavo, cioè proprio testualmente sulle sue lettere si leggono queste parole. Darwin, infatti, poi nel momento della pubblicazione del suo libro Piante insettivore, perché le piante insettivore sono stato un altro grande interesse per Mary Davis, cioè esprime proprio a chiari note il suo riconoscimento nei confronti della botanica Mary Davis, quindi riconosciuta da Darwin, cioè proprio a chiari note. Una caratteristica bella della nostra Mary è che amava esprimersi sia quando le capitava di parlare in pubblico, sia quando scriveva, quindi nei suoi articoli, un linguaggio molto familiare, un linguaggio colloquiale, un linguaggio semplice perché voleva fare in modo che gli argomenti che lei proponeva venissero incamerati non soltanto dalle persone addette ai lavori, non soltanto appunto dagli scienziati di turno, ma anche da tutto un pubblico che appunto era magari a digiuno di alcuni argomenti. E lei proprio incoraggiava soprattutto le lettrici femminili ad interessarsi a questo mondo e quindi proponeva tutte le sue storie, se appunto avete qualche volta, forse non c'è il tempo di leggervi qualcosa, il modo in cui appunto raccontava delle sue esperienze era veramente in maniera molto semplice, molto diretto, che da essere veramente affascinante e veniva riconosciuta anche per questo. Mary pubblicò ben 76 articoli scientifici e scrisse ben 5 libri. Uno dei suoi libri addirittura è stato pubblicato per ben 5 volte, quindi ben 5 volte è stato ridato alle stampe. Lei era convinta che non erano necessari grandi spazi per poter fare dei grandi studi e delle grandi osservazioni. Anzi, era convinta che più piccolo era lo spazio, più c'era materiale da osservare, cioè che comunque in piccoli spazi c'era materiale da osservare anche per una vita intera, proprio perché le sue attenzioni, il suo esame era veramente molto molto molto scrupoloso. Era capace di stare ore e ore veramente ad osservarli. E a proposito delle piante insettivore, proprio per capire qual era il funzionamento delle piante, stava anche ore e ore sedute sulla poltrona del suo divano, con una pianta poggiata sul pollice, sulla mano, ad aspettare ad aspettare qual era il comportamento di questa pianta nei confronti della sua pelle. Quindi, per fare in modo che la pianta si ambientasse e si appunto familiarizzasse con lei, era disponibile a questo immobilismo per ore ed ore. Quindi proprio veramente la sua è stato un dedicarsi alla vita botanica, veramente con un grande sacrificio, ma con una grande dedizione. Appunto le sue opere poi camminarono appunto in tutto il mondo presso tutti gli scienziati e la sua fama si diffuse, ma soltanto nell'ambito scientifico, come dicevo. È ora che appunto la Mary venga fuori, venga riconosciuta. Abbiamo tutta una serie di ragni, piante, le felci, piante insettivore, farfalle cioè che hanno avuto un nome proprio tratto dal suo nome, Mary Trout, però questa volta. Mary all'età di intorno poco prima dei 90 anni si trasferisce nello stato di New York a vivere con sua sorella Nellie e qui continuerà a vivere fino all'ultimo anno della sua vita, il 1923, quando all'età di 92 anni, per i postumi di una caduta, le conseguenze di una caduta, perderà la vita, lascerà il corpo, meglio. Fu sepolta a Vineland, dove appunto aveva vissuto per lungo tempo. Un altro momento importante della sua vita è stato nel 1874, quando divorziò dal marito. Molto probabilmente il tempo dedicato da Mary a tutte le sue ricerche, a tutti i suoi studi, nonché il tempo che il marito impiegava fuori casa per inseguire i suoi interessi e i suoi argomenti preferiti, allontanarono i due. Ma questo per Mary non fu assolutamente un problema, perché lei, grazie a tutte le pubblicazioni e alle scritture, ha avuto la possibilità di mantenersi, quindi economicamente non ha avuto nessuna problematica. Mi viene da pensare che neanche da un punto di vista emotivo abbia particolarmente sofferto di questo. Ha avuto pure la possibilità, poi, sempre grazie ai suoi guadagni, di acquistare una casa nello stesso territorio di Vinaland. Non sono riuscita a capire se ha acquistato la stessa casa in cui ha vissuto dal momento in cui è arrivata su quel territorio, oppure se ha comprato poi una casa diversa. Di sicuro ha avuto un ottimo intuito quando ha pensato di donare tutta la corrispondenza che aveva intrapreso con Asa Gray, con gli altri scienziati, con Darwin, al Vineland Historical and Antiquarium Society, che si trovava presso la comunità di Vineland. Infatti, grazie a queste donazioni, oggi abbiamo la possibilità di attingere alla vita di Mary. Presso questa society sono presenti sia le lettere che lei aveva ricevuto dai vari scienziati e anche le copie di quelle inviate da lei ai vari scienziati, perché questa società poi li chiese ad Harvard e a Cambridge, che a loro volta avevano gli originali ricevuti da Mary. Quindi ritroviamo copie di queste corrispondenze, quindi sia in America e sia appunto presso l'Università di Harvard e presso l'Università di Cambridge. presso l'Università di Harvard c'è pure nell'erbario, ci sono vari esempi di piante che sono state studiate da Mary. E un'altra cosa da dire a proposito del lavoro di Mary è che per studiare queste piante a volte ha avuto la necessità di spostarsi da casa, proprio perché aveva bisogno di andare a cercare in posti un po' sperduti, un po' lontani dal posto cioè abitato, per cercare di recuperare alcune specie che alcuni scienziati avevano ritenuto che fossero estinte, invece poi lei riuscì a recuperarle. E negli anni poi prese anche l'abitudine di passare gli inverni in Florida. In questo modo aveva più possibilità di studiare in un clima diverso i suoi amati insetti. Io mi sono innamorata del personaggio di Mary grazie al libro di Barbara Kingsolver, Un nuovo mondo. È un romanzo storico. Dove però gli avvenimenti storici sono veritieri, corrispondono alla realtà. Terminata la lettura, questo personaggio continuava ad echeggiarmi in testa, ma non avrei mai veramente mai pensato di scrivere qualcosa su di lei, fino al giorno in cui Devana non ci ha invitato a scrivere una tesina su alcuni appunto personaggi femminili che ci fossero piaciuti. E lì ho avuto proprio l'input di dire ok, scriviamo di Mary. La cosa bella è stata pure la serata del 21 gennaio alle ore 21:21 quando siamo andati ad Amorvilla e lì nella riunione delle nostre antenate che mi sono ritrovata sulla nuvola c'era anche lei che mi ha preso le mani, mi ha detto grazie che ti stai interessando a me. E poi io in quel momento ero in un momento di stasi perché non dovevo rivederlo, avevo messo su le cose, però dovevo rivederlo, ma non riuscivo, cioè, a trovare il tempo perché io vorrei mettere in una giornata di 24 ore cose di 48, quindi non riesco mai, poi faccio un po' sempre fatica ad inseguire le cose. E lei mi ha detto, però, insomma, dai, terminalo. E quindi dopo quell'incontro mi sono messo il fine settimana successivo, ho detto ok, lo dobbiamo finire, quindi l'ho preso di punta e l'ho portato avanti. Nella tesina che ho preparato ci sono anche vari momenti in cui, non lo so, se ho avuto delle visioni, se sono stata ispirata da Mary, questo non lo so, però l'ho immaginata bambina e l'ho immaginata. Ho immaginato una bimba che aveva paura degli insetti, quindi la cosa che mi è arrivata è che Mary inizialmente aveva paura degli insetti, fino ad adulta, fino al momento in cui ha conosciuto suo marito. Però ecco che da questo momento, nel momento in cui ha trovato Joseph, è come se qualcosa si fosse aperto in lei, cioè nel senso ha avuto la sensazione, non solo grazie magari al sentimento, ma proprio come se in quel momento avesse avuto la sensazione di doversi aprire a qualcosa di nuovo. Per cui nel momento in cui si è ritrovata in questa società nuova, questa di Vineland, ecco che è come se avesse deciso di amare qualcosa che fino a quel momento le aveva fatto paura. E da qui nasce tutto il suo amore. E tra le varie visioni avute, l'ho vista 80enne che celebra appunto il suo compleanno, che si rende conto appunto che una buona parte della sua vita è passata e che avanza anche ipotesi su teorie sul futuro. A lei bisogna riconoscere anche questo, diverse volte fece delle teorie di tipo naturalistico che poi negli anni si sono rivelate corrette ed esatte. E sicuramente ha avuto anche ragione quando ebbe la percezione che l'uomo, negli anni a venire, con la sua, attività, con la sua vita, con la sua aggressione e aggressività nei confronti della natura, la violenza nei confronti della natura, avrebbe messo veramente in pericolo la vita stessa sulla terra. E anche di questo Mary in questo è stata profeta. E Io mi auguro che da questo momento in poi, non so, forse avrò dimenticato qualcosa da dire, non lo so. Beh, l'ultima visione, sì, questa voglio accennarvi anche questa. Mi è piaciuto immaginare che nei giorni prima del momento in cui lasciava il corpo, abbia avuto l'amicizia, la vicinanza di una mosca che le si proponeva e la invitava a salire sulle proprie ali per farsi cullare, per appunto addormentarsi in serenità e in pace. Come dicevo prima, mi auguro che da questo momento qualcosa appunto nel mondo, qualcuno si interesserà maggiormente a questa figura. Sicuramente, e penso che in seguito a questo libro, perché dobbiamo dare onore al libro che appunto è stato pubblicato in tutto il mondo, qui c'è in tanti paesi nel mondo, quindi sicuramente il suo lavoro l'ha già fatto, ma spero che anche noi abbiamo dato un piccolo seme per un maggiore interesse, per un maggiore riconoscimento di questa figura.